ma poi ci tornerò sul letto di Charlotte. Tra coccole, coperte, tazze, latte e mandorla. Prima o poi ci ritornerò su quel letto di Charlotte. Nascosti da borsette un po' la moda, la maglietta te la sfili apposta per me. E non sa quanti pugni che peggio di una riscia in corso come, e non sa quante sbelle ma rovesci di buio e notte, vabbè, che poi notte sei te. Prima o poi ci tornerò su quel letto di Charlotte, t'ho incontrata alla sua festa scema, guarda che lo sai, prima o poi ti ricorderai, lo so che sono uno fra i tanti, avevo sciarpa e sigaretta, ero il tipo con la faccia a triste. Sono le 10, amore, dai che andiamo a fare colazione. Da qui l'uomo si fa presto con il 12 senpai. Oh, ma un bacio me lo dai, hai un po' di nebbia sul cappotto. Dalle colonne in San Lorenzo i punk stanno accendendo il fuoco. Sai che quando sto con te si vedono le stelle sul soffitto, amore, non mi fa più male la testa. E chissà quante volte te lo dice il tuo ragazzo, l'altro tipo stronzo che hai incontrato alla festa. Adesso con lui dove te ne andrai? Credo da Zanagra. Dopo fiorisce la ricordi e le messaggerie, quanta fame che mi fa. Per il panzerotto di lunini c'è troppa coda, si sa. Facciamo un frullato da via, quella in corso Buenos Aires. Leccherai le labbra sporche di fragola e di panna. E ti leccherà le labbra sporche di fragola e di panna, ma soprattutto sporche di te. Quanto ridevi stamattina. Senza.